Rai Fiction e Radio 2 presentano Il commissario Montalbano, La forma dell'acqua di Andrea Camilleri e Francesco Bruni. Regia di Alberto Sironi. Seconda puntata. Siccome il mare a metà settembre era una tavola, Montalbano si fece un lungo bagno. Tornato alla villetta, preparò gli spaghetti con la polpa di ricci di mare, accese la televisione. Stette ad ascoltare insieme a Livia. Uno dei più importanti personaggi del nostro panorama politico siciliano. Dopo la brillantissima laurea al Politecnico di Milano, Luparello fece ritorno al paese per potenziare l'attività della famiglia, la nota dinastia di costruttori di Montelusa. Il padre progettò la vecchia stazione ferroviaria, il nonno il palazzo di giustizia. In politica aveva è seguito quello le idee del nonno. In ogni manifestazione, celebrazione o comizio che fosse, appariva al fianco dei maggiorenti del partito, ma sempre un passo indietro, come a significare che lui stava lì per scelta e non per collocazione gerarchica. E così, mantenendosi sempre in secondo piano, era uscito illeso dal terremoto scatenato da alcuni giudici milanesi che aveva sconvolto la classe politica al potere da 50 anni. In poco meno di un anno era diventato l'alfiere del rinnovamento politico nel partito e solo 3 giorni fa era stato eletto a furore di iscritti segretario provinciale. Il Netturbino Saro e sua moglie Tana ebbero la mala nottata. Dubbio non c'era che Saro avesse scoperto una trovatura simile a quella che si contava nei conti, dove pastori pezzenti si imbattevano in giarre piene di monete d'oro. Ma qui la questione era diversa, assai dall'antico. La collana, di fattura moderna, era stata persa il giorno avanti. Su questo l'opinione era certa, e a stimarla occhio e croce una fortuna valeva. Possibile che nessuno si era presentato a dire che era sua? Saro e Tana discussero fino all'alba e ci posero fine solo perché Saro doveva andare a travagliare. Ho ufficiato più volte a candidarsi alle elezioni politiche o amministrative che fossero. Si era sempre sottratto con nobilissime motivazioni, richiamandosi a quell'umiltà, a quel servire in ombra e in silenzio che sono le qualità proprie del cattolico. Che hanno detto qualcosa di nuovo alla televisione? No, niente. E della collana? Niente, niente. Vado a vedere come sta Piccirito. Che ha combattuto e lottato sempre per la difesa dei diritti dei suoi amati cittadini. Ricordiamo peraltro che ha sostenuto e affiancato le rivolte studenteschi contro la mafia. Che ha sempre attaccato e combattuto. Perché la sta meglio. Sembra che la febbre è calata. Speriamo. Senti, sai che faccio? Io domani mattina me la vado a vendere dai fratelli Siracusa appena apre il negozio. Saro, Saro, noi oggi siamo persone per bene e mica ti puoi andare a vendere una cosa che non è la nostra. E che vuoi che faccio? Che gliela consegni al capo squadra? Quel connuto dopo 10 minuti se la va a vendere per conto suo. Ma che ti vuoi far sentire da tutto il condominio? Senti, potremmo fare in un'altra maniera. Noi ci teniamo la collana e tu avvisi il tuo capo squadra e se qualcuno se la viene a ripigliare noi gliela diamo. Sì, ma che ci guadagniamo? Un 10%. Secondo te quanto vale? E che ne sai? 10, 15. Ma metti pure che vale 20 milioni. Mi spiega come facciamo a pagare le cure per il nostro figlio con 2 milioni? Senti, guarda che facciamo, Non diciamo niente a nessuno. Facciamo passare un'altra settimana. Poi se nessuno si presenta, andiamo a impegnare, eh? Magari a Pino quella notte non ci poté sonno. Testa speculativa. Gli piaceva il teatro e da attore aveva recitato nelle volenterose ma sempre più rare filodrammatiche di Vigata e dintorni. Di teatro leggeva. Appena lo scarso guadagno glielo permetteva, correva all'unica libreria di Montelusa ad accattarsi commedie e drammi. Viveva con la madre che s'era fatta contare 3 volte la scoperta del morto, costringendolo a illustrare meglio ogni particolare. Scusa se avvocato se la disturba l'ora che abbiamo trovato l'ingegnere Luparello. Ci pare morto. E lo venite a contare a me? No, non l'ho detto così. chi lo venite a contare a me? Ripeté a se stesso il racconto che aveva fatto alla madre e tutto andò bene, ogni cosa tornava. Allora pigliò carta e penna e trascrisse il dialogo avuto con l'avvocato parola per parola. Avvocato Rizzo, sono io. Mi scusasse, avvocato, se la disturbo all'ora che è. Abbiamo trovato l'ingegnere Luparello. Ci pare morto. E perché me lo venite a contare a me? Buongiorno, commissario. Faccia su. Sì, sì, è già arrivato. Anche uno che si azzardi a dire come lo abbiamo trovato. Faccio, non fare l'ingenuo, eh. E le gare d'appalto truccate, le tangenti, tutte quelle altre belle cose che hanno fatto insieme all'avvocato Rizzo. Se sai qualcosa, vada al giudice, lo bianco e parla, eh. Commissario, a chi serve? Sono voci, cose d'aria, di vento, tutti lo sanno, ma nessuno parla. L'avvocato Rizzo faceva da ponte per Luparello. Al Palazzo di Giustizia di Montelusa ci sta una pila alta così di richieste di autorizzazione a procedere. Ma chissà dove sono finiti? Faccio, tu ti devi informare, lo sai chi ha progettato e costruito il Palazzo di Giustizia? E padre Luparello? Pronto, Montalbano sono. Buongiorno, le devo trasmettere dei ringraziamenti. Oh, signor Questore, buongiorno. Da parte di chi? Da parte vescovo e del nostro ministro. Monsignor Teruzzi si è compiaciuto della carità cristiana con cui lei... Ha evitato che giornalisti e fotografi potessero ritrarre e diffondere sconce immagini del cadavere. Io quell'ordine l'ho dato che ancora non sapevo chi fosse il morto, l'avrei fatto per chiunque. Sì, sì, lo so, me l'ha detto Iacomuzzi, ma perché disilludere il santo prelato sulla sua carità cristiana? Pensi che il vescovo ha citato persino Pirandello. Ma no. Ma sì, i sei personaggi. Sai quando il padre dice che uno non può restare per sempre agganciato ad un gesto poco onorevole dopo una vita integerrima a causa di un momentaneo sbaglio? Come a dire che non si può tramandare posteri l'immagine dell'ingegnere con i pantaloni momentaneamente calati. Vedo che mi ha capito perfettamente. Comunque, Montalbano, prudenza... Prudenza? E che c'entra la prudenza? Prudenza. Io non lo so, la parola gliela passo para, come l'ho sentita dalla bocca del ministro. La saluto, commissario, mi raccomando, eh? Prudenza. All'ora di pranzo, il commissario telefonò a Livia, annunciandole che sarebbe passato a prenderla a casa dopo mezz'ora e pregandola di vestirsi da femmina. Quando la macchina imboccò il primo dei tre viottoli che dalla provinciale portavano alla Mannara, solo allora parlò. Sallo, ma perché mi hai portato alla Mannara? Potevamo rimanere a casa. No, devo controllare una cosa. Ah, è qui che l'hanno trovato, vero? Uh-huh. E cosa sei venuto a cercare? Non lo so ancora. E così mi avresti portata qui per cercare quello che volevi senza dare nell'occhio, vero? Sei molto perspicace. E tu sei un gran bastardo. Deve essere andata solo così. Cosa? L'auto di Luparello, quando l'abbiamo trovata, era con il muso da quella parte. Beh, cosa significa? Significa che può essere arrivata solo dalla spiaggia, non da dove siamo arrivati noi dalla strada. Dalla spiaggia? E come poteva arrivare dalla spiaggia? Non lo so. Va bene, adesso che cosa facciamo? Adesso telefoniamo a Fazio. Mm-hmm. E poi, siccome domani tu parti, ci andiamo a mangiare le triglie in un ristorantino. E che ne dici se invece ce ne andiamo a casa? Commissario, il dottore Pasquale voleva vederla. Il suo amico, dottor Augello, telefonò per confermare che è entrata alle ferie il giorno, non ricordo. Gli agenti Galla e Galluzzo trovano attualmente a segno. Ho capito, grazie. Prego, dottore, d'accordo. Allora? Le anticipo quello che le manderò per iscritto. Niente di niente. L'ingegnere è morto per cause naturali, gli è scoppiato il cuore. Per il resto stava bene. Non gli funzionava solo la pompa ed è quello che l'ha fottuto. C'erano altri segni sul corpo? Che dici? Non so, ecchimosi, contusioni. Gliel'ho detto, niente. Arrivederci. Ah, scordavo. L'ingegnere è morto, sì. Ma quello per cui era andato in quel posto è riuscito a farlo fino in fondo. Buon per lui. Pronto? Pronto, signor Questore, a Montalbano sono. Mi dica. Senta, la volevo avvertire che ho appena parlato col dottor Pasquano. Mi risparmi il fiato su tutto, mi ha telefonato Iacomuzzi che mi ha informato. Mi pare una gran bella cosa. Che cosa, mi scusi, non ho capito. Mi pare bello che qualcuno in questa nostra splendida provincia si decida a morire di morte naturale dando il buon esempio. Sì. Ah, mi scordavo, mia moglie si è inventata una nuova ricetta per i polipetti. Viene a cena da noi questo venerdì. I polipetti, signor Questore, con piacere, grazie. Allora l'aspettiamo. Le passo il giudice Lo Bianco. Arrivederci. Sì, grazie. Montalbano? Signor giudice, buongiorno. Iacomuzzi mi ha detto che non c'è nulla di anormale ed io ho già autorizzato l'inumazione. Ancora Iacomuzzi. Lei ha nulla in contrario? No, niente, niente, mi scusi, dicevo tra me e me. Allora posso ritenere il caso chiuso. Mi potrebbe dare ancora 2 giorni di tempo? Perché? Che c'è? Non vorrei che qualcuno pensasse che abbiamo archiviato la cosa di Brescia perché non volevamo andare in fondo alla cosa. Sa, ci vuole poco a fare nascere quest'idea. D'accordo, le concedo 48 ore di tempo. Grazie, signor giudice. Arrivederla. Trovò una risposta, una scappatoia. Non poteva certo contargli che la sua richiesta si basava sul nulla, o meglio, sulla sensazione di sentirsi fatto fesso da qualcuno che al momento si dimostrava più esperto di lui. Il commissario Montalbano, La forma dell'acqua, con Luca Zingaretti, commissario Montalbano, e Michele Gammino, voce narrante, e con Claudia Catani, Giovanni Guardiano, Peppino Mazzotta, Marcello Perracchio, Tullio Sorrentino, Bruno Torrisi. Musiche originali di Franco Piersanti. Realizzazione radiofonica di Roberto Rossi. La forma dell'acqua di Andrea Camilleri è pubblicata da Sellerio. Posta elettronica sceneggiato@rai.it.